Avevano preso la strada dello stagno rotondo, quel magnifico stagno formato dalle inondazioni di tanto tempo fa. Nessuno ne conosceva la profondità ed era anche un mistero che fosse quasi un circolo perfetto, tutto contornato di salici e di canneti, sicché l'acqua non si poteva vedere che quando si arrivava proprio sulla riva. La vista di quel luogo da tempo prediletto accresceva sempre il buon umore di Tom, il quale parlava a Maggie col più amichevole bisbiglio mentre apriva la preziosa sporta e preparava gli ami. Buttò per lei la lenza e le diede da tenere la canna. Maggie pensava che con ogni probabilità i pesci piccoli sarebbero venuti al suo amo e i grossi a quello di Tom. Ma aveva già dimenticato di pensare ai pesci e guardava incantata allo specchio dell'acqua allorché Tom le sussurrò con forza: «Guarda, guarda Maggie!» E venne di corsa per impedirle che si lasciasse strappar via la lenza. Maggie ebbe terrore d'aver fatto al solito qualche cosa di male, ma ecco che Tom le tirò su la lenza e una grossa tinca venne fuori a dibattersi sull'erba. Tom era esaltato. «Oh, Magsy, mio caro anatrotto, vuota la sporta!» Maggie non credeva d'avere dei meriti insoliti, ma le bastava che Tom la chiamasse Magsy e fosse contento di lei. Non c'era nulla che potesse turbare la sua gioia durante queste conversazioni a bassa voce e questi incantati silenzi mentre ascoltava il lieve sciacquio dei pesci che venivano a galla e quel sussurro lieve, quasi che i salici e i canneti e le acque bisbigliassero anch'essi la loro felicità. Maggie pensava che sarebbe stato un delizioso paradiso il rimanersene così seduta presso lo stagno e non essere mai rimproverata. Non riusciva mai ad accorgersi che il pesce abboccava finché Tom non glielo diceva, e tuttavia le piaceva moltissimo di pescare. Fu quello uno dei loro mattini di felicità. Camminarono insieme, si sedettero accanto senza il minimo pensiero che la vita potesse mai cambiare per loro. Solo sarebbero diventati grandi e non sarebbero andati più a scuola. Sarebbe sempre stato come nelle vacanze. Avrebbero vissuto sempre insieme, volendosi bene. Il mulino col suo fragore, il grande castagno sotto cui giocavano a costruire le casette, il loro piccolo fiume, la Ripple, di cui gli argini erano un po' come cosa loro, e Tom stava sempre avvistando dei topi acquatici, mentre Maggie raccoglieva le rosse e piumose cime delle canne, che poi dimenticava e buttava via. E soprattutto la grande Floss, lungo la quale essi vagabondavano con l'impressione di un viaggio, per vedere l'avanzarsi della piena di primavera, l'orca paurosa che giungeva come un mostro affamato, o per guardare il grande frassino che una volta aveva gemuto e si era lamentato come un uomo. Tutte queste cose sarebbero rimaste sempre uguali per loro. Tom pensava alla condizione di inferiorità della gente che viveva in altri luoghi del mondo e Maggie, quando leggeva di Cristiano che passa il fiume sopra cui non c'è ponte, sempre rivedeva la Floss tra i verdi pascoli presso il grande frassino. La vita mutò per Tom e per Maggie, eppure essi non avevano torto di credere che i pensieri e gli affetti di questi primi anni avrebbero sempre fatto parte delle loro vite. Nessuno di noi avrebbe mai potuto amare tanto la terra se la nostra infanzia non fosse trascorsa vicino ad essa. Se non fosse quella terra dove ad ogni primavera rispuntano i medesimi fiori che eravamo usi a raccogliere con le nostre piccole dita, quando sedevamo sull'erba balbettando a noi stessi le nostre prime parole, le medesime bacche della rosa canina e del biancospino sulle siepi di autunno, i medesimi petti rossi che chiamavamo uccelli del Signore perché non recavano guasto ai preziosi raccolti. Quale novità può valere questa dolce monotonia dove tutto è noto ed è amato perché è noto? Il bosco per cui io passeggio in questa mite giornata di maggio, col giovane fogliame giallo-bruno delle querce tra me e il cielo azzurro, i bianchi anemoni e la veronica, occhi cerulea, e l'edera serpeggiante ai miei piedi, quel ciuffo di palme dei tropici, quali esotiche felci, quali splendidi fiori dalle grandi corolle potrebbero far vibrare entro di me così profonde e delicate fibre come queste vedute domestiche. Questi fiori familiari, questi indimenticabili canti di uccelli, questo cielo con le sue volubili ore di purezza, questi campi solcati ed erbosi, ciascuno con una sua figura segnatagli dal capriccio delle siepi. Tali cose sono il linguaggio materno della nostra immaginazione, il linguaggio rimasto in noi con tutte le sottili, inestricabili associazioni che le fuggitive ore dell'infanzia si sono lasciate dietro di loro. La nostra delizia per questo sole che ride oggi sopra le alte erbe non sarebbe nulla più che una languida sensazione delle nostre anime stanche, se non ci fossero stati quel ridere di sole e quell'erba degli anni lontani che ancora vivono in noi e trasformano la nostra sensazione in amore. 6. Stanno per giungere le zie e gli zii. Era la settimana santa e le frittelle al formaggio di Mrs. Tulliver erano ancora più squisitamente leggere del consueto. Un soffio di vento se le porterebbe via come piume, diceva Kezia, la donna di servizio, tutta fiera di essere agli ordini di una padrona che sapeva confezionare una simile pasticceria. Così nessuna stagione, nessuna occasione si sarebbero presentate altrettanto propizie per una riunione di famiglia, quando anche non fosse stato saggio di consultare sorella Glegg e sorella Pallet in merito all'entrata di Tommy in collegio. «Non vorrei proprio invitare sorella Diana stavolta», disse Mrs. Tulliver, «perché è golosa e tirchia al possibile, cerca sempre di mettere in cattiva luce i miei poveri figlioli agli occhi delle loro zie e zii». «No, no», disse Mr. Tulliver, «falla venire». È tanto difficile adesso che riesca a far quattro chiacchiere con Diane. Sono 6 mesi che non l'abbiamo più avuta qui. Cosa importa quel che dice lei? I miei figlioli non debbono niente a nessuno. Tu ripeti sempre questo, Mr. Tulliver. Ma io sono sicura che non c'è nessuno dalla tua parte, né zio né zia, che lasci loro uno straccio di biglietto da 5 sterline in eredità. Mentre invece sorella Glegg e anche sorella Pallet risparmiano delle somme che nessuno può sapere, perché mettono da parte gli interessi e anche lo spillatico. Sono i mariti che fanno tutte le loro spese. Mrs. Tulliver era una mite donna, ma anche una pecora sa alzare un po' la testa quando si tratta dei suoi agnelli. Via, disse Mr. Tulliver, ci vuole una torta grossa quando si è in molti a mangiare. Che significano i piccoli risparmi delle tue sorelle quando hanno da dividerli tra una mezza dozzina di nipoti? E tua sorella Diane non vorrai indurle a lasciare tutto a uno solo, credo, perché poi tutto il paese gridi alla vergogna quando siano morte. Non so cosa le indurrà a fare, disse Mrs. Tulliver, perché i miei figlioli sono tanto stupidi con le zie e gli zii. Quando vengono qui Maggie è 10 volte più cattiva che gli altri giorni, e Tom, Dio lo salvi! Non ha affezione per loro. Manco male che in un ragazzo questo è più naturale che in una bambina. E invece la Lucy di Diane è una così brava bambina. Potete metterla a sedere su uno sgabello che lei se ne sta lì per tutto un'ora e non chiede mai di alzarsi. Non posso fare a meno di volerle bene a quella bambina, come se fosse la mia. E son sicura che sembra più mia che di sorella Diane, perché per essere della nostra famiglia, sorella Diane ha sempre avuto una carnagione troppo pallida. Va bene, se sei tanto attaccata a quella bambina, di' al padre e alla madre che la conducano con loro. E non vorresti invitare anche la zia e lo zio Moss? E qualcuno dei loro bambini? Santo cielo, Mr. Tulliver! Farebbe 8 senza contare i bambini e dovrei mettere 2 assi di più alla tavola, oltre a tirar fuori tanti pezzi in più del servizio. E poi, tu sai meglio di me che le mie sorelle se la dicono poco con tua sorella. Va bene, fa come vuoi, Bessie. Disse Mr. Tulliver prendendo il cappello e uscendo per andarsene al mulino. Poche mogli erano più sottomesse che Mrs. Tulliver in tutto ciò che non riguardava i rapporti con la propria famiglia, ma lei era stata una Miss Dodson, e i Dodson erano veramente una famiglia molto rispettabile, tenuta in considerazione come nessun'altra nella loro parrocchia e anche in quella vicina. Che le signorine Dodson mirassero molto in alto si era sempre saputo, e nessuno si era meravigliato che le due maggiori avessero fatto dei così buoni matrimoni, e neppure più in età tanto giovane, perché questo non era negli usi della famiglia. C'erano in quella famiglia Dodson dei modi speciali per ogni cosa che si facesse, modi speciali per lavare la biancheria, per fare lo sciroppo di primule, per preparare i prosciutti e per conservare i barattoli dell'uva spina. sicché nessuna ragazza di quella casa poteva sentirsi indifferente al privilegio d'essere nata una Dodson piuttosto che una Gibson o una Watson. I funerali della famiglia Dodson venivano sempre fatti con speciale decoro. Il lutto sul cappello non era mai di un turchiniccio dubbioso, i guanti mai strappati sul pollice, ciascuno seguiva il feretro nell'ordine dovuto e per i portatori c'erano sempre le sciarpe. Quando qualcuno della famiglia aveva un dispiacere o una malattia, tutti gli altri andavano a far visita all'infelice, di solito tutti insieme, e non si facevano riguardo di esporgli le più sgradevoli verità dettate dal buonsenso familiare. Se della malattia o della disgrazia era colpevole chi ne era afflitto, l'uso della famiglia Dodson voleva che non ci si facesse scrupolo di cantarglielo chiaro. In breve, questa famiglia serbava una specifica tradizione delle ottime regole, sì nel governo di casa che nella vita sociale, e la sola conseguenza spiacevole di una simile superiorità consisteva in una penosa impossibilità di approvare la cucina o la condotta delle famiglie non governate dalla tradizione Dodson. Una Dodson, anche in casa altrui, mangiava sempre pane asciutto col tè e rifiutava ogni specie di marmellate, non avendo fiducia nel burro e ritenendo che le conserve erano probabilmente in via di fermentare per insufficienza di zucchero o per inadeguata cottura. Certi Dodson somigliavano meno che altri al tipo di famiglia, questo era ammesso, ma per quel tanto che erano della parentela, necessariamente valevano di più di quelli che erano fuori dalla parentela. E bisognava osservare che mentre nessuno dei Dodson era individualmente soddisfatto di alcun altro Dodson preso come individuo, ciascuno poi era soddisfatto non soltanto di se stesso o di se stessa, ma di tutta la collettività dei Dodson. Il più insignificante tra i componenti di una famiglia, quello che ha meno carattere, è spesso il più pretto riassunto delle abitudini e tradizioni familiari. E Mrs. Tulliver era una perfetta Dodson, quantunque troppo mite, così come una birra leggera per tutto il tempo che dura non può mai chiamarsi altro che una birra molto debole. Per quanto in gioventù ella avesse un po' penato sotto il giogo delle sorelle maggiori e ancora adesso spargesse ogni tanto qualche lacrima per i loro sorellevoli rimproveri, non era certo lei che potesse farsi rinnovatrice delle idee familiari. Era riconoscente di essere stata una Dodson e di avere un figlio che aveva preso dalla sua famiglia, almeno nelle fattezze e nella carnagione, nell'amare il sale e nel mangiare le fave, cosa che un Tulliver non avrebbe mai fatto. Sotto altri rapporti, il vero Dodson rimaneva un po' latente in Tom, il quale, non meno di Maggie, era ben lungi dall'apprezzare la parentela materna. Anzi, quando riusciva ad essere avvertito in tempo che le zie e gli zii stavano per giungere, generalmente si nascondeva per tutto il giorno con una copiosa provvista dei viveri più tascabili, sintomo morale da cui zia Glegg deduceva i più sinistri presagi per l'avvenire. Per Maggie era alquanto penoso che Tom si nascondesse sempre senza metterla a parte del segreto, ma il sesso debole è notoriamente un serio impaccio nei casi di fuga. Il mercoledì, vigilia dell'arrivo delle zie e degli zii, si sparsero dei così svariati e promettenti odori come di plumcakes al forno e di conserve calde, il tutto misto con l'aroma dei sughi di carne, che era impossibile sentirsi del tutto pessimisti. C'era della speranza nell'aria. Tom e Maggie fecero parecchie incursioni in cucina e, come altri ladruncoli domestici, si lasciarono indurre a tenersi lontani per un certo tempo, solo dopo avere ottenuto di portarsi via un sufficiente quantitativo di leccornie. «Tom», disse Maggie quando furono appollaiati sui rami del sambuco a mangiarsi la loro torta alla marmellata, «conti di scappare domani?» «No», disse Tom lentamente quando ebbe terminato la sua torta, dando un'occhiata a quella terza che dovevano dividersi fra loro. «Non lo farò». «Come mai, Tom? Forse perché verrà Lucy?» «No», disse Tom, aprendo il suo temperino e tenendolo sospeso sulla torta, il capo inclinato da una parte con aria di dubbio. Era un difficile problema quello di dividere in due parti uguali un poligono molto irregolare. Che me ne importa di Lucy? È soltanto una ragazzina, non sa giocare alla palla col randello. Per via del cake al liquore, allora? Disse Maggie, mettendo alla prova le proprie facoltà di congettura mentre si chinava verso Tom con gli occhi fissi sul coltello aperto. No, sciocca che sei. Quello sarà buono posdomani. Il pudding c'è. E lo so io che pudding. Albicocche avvolte nella pasta, corpo dei miei bottoni. Su questa interiezione il coltello calò sulla torta e ne fece due parti, ma il risultato non riuscì soddisfacente per Tom, che rimase dubbioso a guardare le parti. Alla fine disse: Chiudi gli occhi, Maggie. Perché? Non ti preoccupare, chiudili dal momento che te lo dico io. Maggie obbedì. Adesso quale vuoi, Maggie? Mano destra o mano sinistra? Voglio quella da cui è uscita la marmellata, disse Maggie, tenendo gli occhi chiusi per far piacere a Tom. No, così non vale, sciocca. L'avrai se la vinci al gioco, altrimenti non te la do. Destra o sinistra? Scegli ora. Ah, disse Tom esasperato perché Maggie sogguardava. O tieni chiusi gli occhi o non avrai nulla. La capacità di sacrificio in Maggie non si spingeva fino a quel punto. E veramente io temo che il desiderio di vedere Tom in possesso della più grossa fetta di torta fosse in lei meno vivo che quello di contentarlo dandogli il boccone migliore. Così chiuse gli occhi stretti stretti fino a che Tom le ripeté: Quale scegli? E allora disse: Quella di sinistra. Ci sei riuscita, disse Tom con voce alquanto seccata. Come? La fetta da cui è colata la marmellata? No, ecco, prendila, disse Tom con fermezza, porgendo risolutamente a Maggie la parte più grossa. Oh, ti prego, Tom, tienila per te, a me non importa. Mi piace di più l'altra. Prenditi questa per piacere. No, mai, disse Tom, quasi irritato, attaccando la sua fetta più scadente. Maggie, pensando che era inutile di continuare a discutere, cominciò anche lei a mangiarsi la sua mezza torta con grande piacere, non meno che con grande rapidità. Tom aveva finito per primo e mentre Maggie mangiava l'ultimo o il penultimo boccone era rimasto a guardare, sentendosi la possibilità di mangiarne ancora parecchia. Maggie non s'accorse che Tom la guardava. Stava facendo l'altalena sul ramo di sambuco, estranea a tutto fuorché ad un vago senso di marmellata e di pigrizia. Oh, pezzo di golosaccia, disse Tom quando ella ebbe inghiottito l'ultimo boccone. Aveva coscienza di essersi comportato con molta lealtà e pensava che ella avrebbe dovuto notarlo e tenergliene conto. Dianzi, egli avrebbe rifiutato il più piccolo boccone della fetta di lei, ma è naturale che i punti di vista prima e dopo d'aver mangiato la propria porzione di torta siano differenti. Maggie impallidì. Ma Tom, perché non me l'hai chiesta? Non te ne avrei mai chiesto un boccone, golosaccia. Avresti dovuto pensarci da sola quando hai visto che ti avevo dato la migliore. Ma io volevo che la prendessi tu, lo sai, disse Maggie con aria offesa. Eh sì, ma non avrei mai fatto una cosa disonesta come Spouncer. Lui si prende sempre i pezzi migliori se non si fa pugni. E se tu a occhi chiusi scegli il meglio, lui ti cambia la mano. Ma io quando faccio le parti tratto con onestà pur di non far la figura del goloso. Con questa pungente insinuazione, Tom saltò giù dal suo ramo e tirò un sasso, accompagnato da un «Uè!» a titolo d'amichevole cortesia verso Yap, il quale era rimasto a guardare in su mentre le cibarie sparivano, con una trepidazione degli orecchi e dei sentimenti che certo non doveva essere senza amarezza. Tuttavia l'eccellente cane accolse la cortesia di Tom con allegrezza, come fosse stato fatto segno di un generoso trattamento. Maggie invece, animata da quella superiore facoltà di commiserarsi che distingue la creatura umana e la mette ad una orgogliosa distanza dal melanconicissimo scimpanzé, rimase seduta sul suo ramo, abbandonandosi all'acre disappunto di un rimprovero immeritato. Avrebbe dato il mondo intero per non aver mangiato tutta la sua torta ed averne conservato un pezzetto per Tom. Non che la torta non fosse squisita, giacché il palato di Maggie era tutt'altro che insensibile, ma ella avrebbe accettato le mille volte di rimanerne priva, piuttosto che sentirsi chiamare golosaccia e vedere Tommy irritato contro di lei. Ma era stato lui a dirle che non la voleva. E così lei l'aveva mangiata senza pensarci che ci poteva fare. Le lacrime scorrevano così copiose che per circa 10 minuti Maggie non vide più nulla. Ma nel frattempo il disappunto cominciò a cedere al desiderio di riconciliazione ed ella saltò giù dal ramo in cerca di Tom. Nel recinto, dietro il deposito del grano, non c'era più. Dove poteva essere andato? E Yap con lui. Maggie corse sull'argine alto di contro al grande elce, donde poteva vedere molto distante in direzione della Floss. Tom era proprio là, ma il cuore di lei tornò a sussultare nel vedere che egli era già così lontano, sulla strada del grande fiume, e che oltre Yap aveva un altro compagno, il cattivo Bob Jakin, momentaneamente disoccupato nel suo mestiere ufficiale, se non naturale, di spaventapasseri. Che Bob fosse un tristo, Maggie lo sentiva con certezza, senza peraltro comprenderne bene il perché, a meno che fosse perché la mamma di Bob era una donna spaventosamente grassa che abitava in una strana casa rotonda, giù lungo il fiume. E una volta che Maggie e Tom si erano spinti fin laggiù, era sbucato fuori un cane chiazzato che non voleva smetterla di abbaiare. E quando la madre di Bob era uscita anche lei, coprendo con le sue grida l'abbaiare del cane per dir loro di non aver paura, Maggie aveva creduto che volesse insultarli malamente ed il cuore si era messo a battere dallo spavento. Maggie pensava che molto probabilmente nella casa rotonda dovevano esserci i serpenti sul pavimento e i pipistrelli nella camera da letto, perché aveva veduto Bob che si toglieva il berretto e mostrava a Tom un piccolo serpente che c'era dentro. Un'altra volta aveva una manciata di giovani pipistrelli. Tutto sommato, egli doveva essere un carattere strano, forse anche un po' diabolico, a giudicare dalla sua dimestichezza con i serpenti e i pipistrelli. E per maggior conforto, Tom, quando era in compagnia di Bob, non pensava più a Maggie e non voleva mai lasciarla venire con lui. Bisogna ammettere che Tom era entusiasta della compagnia di Bob. E come poteva essere diversamente? Bob, appena veduto un uovo d'uccello, capiva subito se era di rondine o di cincia o di verdone, scovava tutti i nidi di vespe e sapeva tendere ogni sorta di trappole, capace di arrampicarsi sugli alberi come uno scoiattolo. Aveva un potere veramente magico nello stanare ricci e talpe, e poi aveva il coraggio di fare cose veramente maligne, come aprir buchi nelle siepi, tirar sassi dietro le pecore e uccidere un gatto che si aggirasse in incognito. Simili qualità in un inferiore che poteva sempre essere trattato con autorità a dispetto della sua superiore astuzia, esercitavano per forza un fatale prestigio su Tom. E in tutti i periodi di vacanza Maggie era certa di dover passare delle giornate di malumore perché lui se n'era andato fuori con Bob. Ebbene, non c'era più speranza. Adesso egli se n'era andato e a Maggie non rimaneva altra consolazione che quella di sedersi presso l'elce o di vagabondare lungo la siepe fantasticando che tutto fosse diverso e ricostruendosi il suo piccolo mondo proprio come le sarebbe piaciuto che fosse. Maggie aveva una vita di affanni e quello era il modo per lei di prendere l'oppio. Tom, frattanto, completamente dimentico di Maggie e della spina che il suo rimprovero le aveva lasciato in cuore, si affrettava con Bob, che aveva incontrato per caso, verso il teatro di una grande caccia ai topi in un granaio vicino. Bob conosceva tutti i particolari della cosa e parlava del divertimento con un entusiasmo che nessuno potrà a meno di comprendere, se non sia proprio diseredato di umano sentire o lamentevolmente ignorante in materia di caccia ai topi. Per essere una persona sospetta di sovrannaturale perversità, Bob non aveva poi un aspetto tanto orrendo. C'era anzi qualcosa di simpatico nel suo viso camuso, sotto quella folta e ricciuta frangia di capelli rossi. Ma i suoi calzoni, peraltro, erano sempre rimboccati fin sopra i ginocchi, per comodità di cacciarsi in acqua al più piccolo indizio. E la sua virtù, supposto che esistesse, era senza dubbio una virtù in cenci, la quale, anche sull'autorità dei filosofi biliosi, per cui tutti i meriti ben vestiti sono sopravvalutati, rischia notoriamente di rimanere disconosciuta, forse perché la si incontra tanto di rado. Conosco l'uomo a cui appartengono i furetti, disse Bob con voce rauca e acuta, mentre camminava trascinando i piedi, e teneva fissi sul fiume gli occhi azzurri, simili a un anfibio che preveda l'occasione di tuffarvisi. Sta nella corte del canale dei Sintox, sta. È il più grande cacciatore di topi che ci sia, eh. Per me io preferirei essere un cacciatore di topi che qualunque altra cosa, preferirei. Le talpe non sono niente in confronto coi topi. Ma Dio santo, bisogna averci i furetti. I cani non sono buoni. Ecco quel cane lì, per esempio, seguitava Bob indicando Yap con aria di disgusto. Va almeno che zero coi topi. Me ne accorgo ben io, me ne accorgo, quando si cacciano i topi nel granaio di vostro padre. Yap, sentendo la deprimente influenza di un tale disdegno, abbassò la coda e si strinse alle gambe di Tom, il quale si sentì un poco offeso per lui, ma non ebbe il sovrumano coraggio di parer da meno di Bob nel disprezzare un cane che faceva così meschina figura. No, no, disse. Yap non va per questi divertimenti. Avrò buoni cani specializzati per i topi e per ogni altro genere appena terminati gli studi. Dei furetti dovete avere, Mastro Tom, disse Bob vivamente, di quei furetti bianchi con gli occhi rossi. E così, Dio buono, potrete cacciare i vostri topi, potrete mettere un topo in gabbia con un furetto e vederli combattere, potrete. Questo è quel che mi piacerebbe fare, lo so ben io. E sarebbe un divertimento molto più grande che vedere due uomini che si battono, a meno che non fossero quei due che vendono le frittelle e le arance alla fiera, che tutte le loro cose volavano fuori dalla cesta e qualche frittella si è anche spiaccicata. Ma di gusto erano buone lo stesso, aggiunse Bob a guisa di nota bene dopo un momento di silenzio. Ma però, Bob, disse Tom con aria ponderata, i furetti sono delle bestie maligne che mordono. Quelli ti mordono un individuo anche senza essergli lanciati contro. Santo Dio, ma è proprio questo il loro bello. Se qualche stravagante fa tanto di toccare il vostro furetto, detto fatto, quello gli appioppa un buon morso, gli appioppa. A questo punto, un singolare incidente costrinse d'improvviso i ragazzi a fermarsi. Un piccolo essere, tra i salici della riva, s'era tuffato nell'acqua e se quello non era un topo d'acqua, Bob si dichiarava pronto a subire le più sgradevoli conseguenze. «Toh, Yap, toh, eccolo lì!» gridò Tom battendo le mani mentre il piccolo muso nero correva come una freccia verso l'opposta riva. «Prendilo, piccino, prendilo!» Yap dimenava le orecchie e corrugava la fronte, ma si rifiutava di tuffarsi, provando se con i suoi latrati poteva raggiungere ugualmente lo scopo. Un vigliacco! Gridò Tom e lo prese a calci, sentendosi come cacciatore umiliato di possedere un animale così codardo. Bob si astenne dai commenti e ripigliò il cammino, ma tenendosi a buon conto sulle basse rive del fiume straripato in via di ritirarsi. Non è più tanto grossa ora la Floss, disse Bob mentre scalciava contro l'acqua davanti a sé con un piacevole senso di usarle villania. L'anno scorso i prati facevano tutto uno specchio d'acqua, facevano. Già, ma, disse Tom, che era sempre portato a scorgere delle contraddizioni tra pareri in realtà affatto concordi. Ma una volta c'è stata una grande inondazione quando si è formato lo stagno rotondo. Lo so io che c'è stata perché me l'ha detto mio padre. E le pecore e i buoi furono tutti annegati e si andava in barca sopra i campi, che era una cosa straordinaria. A me non importa niente se viene l'inondazione, disse Bob. Acqua o terra per me fa tutt'uno. Andrei a nuoto, ecco. Beh, ma se per tanto tempo non hai niente da mangiare, disse Tom, a cui l'immaginazione, sotto lo stimolo di quella paura, diventava fervida. Quando sarò grande mi farò un battello con sopra una casa di legno, come l'arca di Noè, e la riempirò di roba da mangiare, conigli ed altre cose, già tutte preparate. E allora, Bob, se viene l'inondazione non me ne importa niente, capisci? E ti ci carico sopra se ti vedo nuotare, aggiunse con un'aria di benevola protezione. Oh, io non avrò paura, disse Bob, a cui la fame non pareva poi così spaventosa, ma verrò su a colpire i conigli sulla testa quando voi vorrete mangiarli. E io avrò dei denari e giocheremo a testa e croce, disse Tom, senza prospettarsi la possibilità che una simile ricreazione potesse presentare minori attrattive in un'età più matura. Farei io le parti, onestamente, per cominciare. E poi si vedrebbe chi vince. Io ho una halfpenny di mia proprietà, disse Bob con fierezza, uscendo fuori dell'acqua e buttando in aria la sua moneta. Testa o croce? Croce, disse Tom, subito acceso dal desiderio di guadagnare. È testa! Esclamò Bob, riprendendosi in fretta la moneta appena caduta. Non è vero, disse Tom con tono alto e perentorio. Dammi la moneta, l'ho vinta onestamente. Ma che, disse Bob, tenendola stretta in tasca. Allora ti costringerò, vedrai se non ti costringo, disse Tom. Voi non potete costringermi a niente, voi, disse Bob. Sì che posso. No che non potete. Io sono il padrone. Me ne infischio di voi. Saprò costringerti a non infischiartene, truffatore, disse Tom acciuffando Bob per il collo e scrollandolo. Oh, andatevene per i fatti vostri, disse Bob sferrando un calcio a Tom. Il sangue di Tom era tutto in tumulto. Si slanciò di colpo su Bob e lo abbatté, ma Bob s'afferrò a lui, s'aggrappò come un gatto e lo tirò giù con sé. A terra lottarono violentemente per un momento o due finché Tom, inchiodando Bob con le spalle al suolo, credette di avere la supremazia. Dimmi che mi darai il mezzo penny adesso, disse con difficoltà mentre si sforzava di tenere in suo potere le braccia di Bob. Ma a questo punto Yap, che era corso avanti, tornò abbaiando sul teatro dell'azione e vide l'occasione favorevole per mordere le gambe nude di Bob, non solo con impunità, ma altresì con onore. Il conficcarsi dei denti di Yap, invece di sorprendere Bob facendogli allentare la stretta, gli diede più fiera ostinazione, sicché con un nuovo sforzo di tutte le sue energie, rovesciò Tom su un fianco ed ebbe la meglio. Ma allora Yap, che prima non aveva trovato presa sufficiente, affondò i suoi denti in un altro punto, in guisa che Bob, sotto questo tormento, lasciò andare Tom e, quasi strozzando Yap, lo buttò nel fiume. Nel frattempo Tom s'era rialzato e prima che Bob avesse completamente recuperato l'equilibrio perduto nel gettare Yap nel fiume, saltò su di lui, lo buttò a terra e puntò fortemente il ginocchio sul suo petto. Ora dammi quel mezzo penny, gli intimò. Prendetelo, rispose Bob riottosamente. No, che non lo prenderò, devi darmelo tu. Bob estrasse di tasca la moneta, la fece ruzzolare per terra lontano da sé e Tom mollò la stretta, lasciando che Bob si rialzasse. Eccolo là il tuo mezzo penny, disse. Non so che farmene del tuo mezzo penny, non volevo mica tenermelo. Ma tu hai tentato di truffare e io detesto i truffatori. Non verrò mai più con te, soggiunse, girandosi verso casa, non senza un sospiro di rimpianto per la caccia ai topi e per gli altri piaceri a cui doveva rinunciare abbandonando l'amicizia di Bob. Lasciate pure il mezzo penny, allora, gli gridò Bob dietro le spalle. Io posso truffare quanto mi pare e piace. Non c'è divertimento a giocare in altro modo, e poi so dove c'è un nido di cardellini, ma guarderò bene che voi non siete che un cattivo attaccabrighe, voi. Tom se ne andò senza volgersi indietro e Yap seguì il suo esempio perché quel bagno freddo aveva calmato le sue passioni. E andatevene un po' col vostro cane annegato. Non vorrei mai avere un cane simile io, disse Bob, gridando più forte in un ultimo tentativo di sostenere la propria sfida. Ma Tom non si lasciò provocare a voltarsi e la voce di Bob cominciò ad abbassarsi un poco mentre diceva: E sono io che vi ho insegnato tutto, io che vi ho mostrato tutto e a voi non ho mai chiesto nulla. Ecco, eccovi il vostro temperino col manico di corno, quello che mi avete regalato. E qui Bob scagliò il temperino più lontano che poté dietro i passi di Tom che se ne andava. Ma questo non produsse altro effetto se non, nell'animo di Bob, l'impressione di un terribile vuoto nel suo destino ora che il temperino se n'era andato. Rimase lì, fermo, finché Tom non ebbe varcato il cancello e fu scomparso dietro la siepe. Il temperino non sarebbe servito a niente lì per terra, nemmeno a dare un dispiacere a Tom, e orgoglio ora ancora erano nell'animo di Bob dei deboli sentimenti in paragone all'amore per un coltellino da tasca. Perfino le sue dita gli spasimavano, implorando che egli si decidesse a raccattare quel rozzo e familiare manico di corno che si avevano tante volte impugnato per pura affezione, mentre se ne stava inerte nella tasca. Due lame c'erano ed erano appena appena state affilate. Che cos'è la vita senza un coltellino da tasca per chi abbia un tempo goduto di un'esistenza più alta? No, gettare il manico dietro alla scure è un comprensibile atto di disperazione, ma buttare un temperino dietro un amico inesorabile è evidentemente in tutti i sensi un'esagerazione o qualcosa che va oltre lo scopo. E così Bob ritornò precipitosamente nel luogo dove il caro temperino giaceva nel fango e provò un piacere affatto nuovo nel tornare a impugnarlo dopo la temporanea separazione, nell'aprire una lama dopo l'altra e nell'assaggiarne il filo sulla dura pelle del suo pollice. Povero Bob. Non era sensibile al punto d'onore, non era un carattere cavalleresco. Questo delicato profumo morale, quando pure si fosse lasciato sentire, non poteva essere molto apprezzato dalla pubblica opinione di corte del canale, che era il vero centro della terra nell'universo di Bob. E peraltro egli non era del tutto un mascalzone e un ladro, come aveva sentenziato con leggerezza il nostro Tom. Ma Tom, lo vedete anche voi, era un personaggio piuttosto radamantico, che possedeva in dose maggiore del solito quel senso di giustizia che è proprio dei ragazzi, quella giustizia che aspira a colpire i rei esattamente quando se lo meritano e non è mai turbata da dubbi circa l'esatta misura della loro colpevolezza. Maggie gli vide una nube sulla fronte quando egli tornò a casa, il che diminuì la sua gioia per quel ritorno tanto più sollecito di quanto si aspettava. E osò appena di parlargli, allorché egli si fermò in silenzio a gettare dei minuti sassolini di ghiaia nel canale del mulino. Non è piacevole rinunciare ad una caccia ai topi quando già ci si contava sopra. Ma se Tom avesse confessato i sentimenti che ora lo dominavano, avrebbe dovuto dire rifare ancora la stessa cosa. Questo era il suo modo consueto di considerare le passate azioni, mentre il desiderio di Maggie era sempre quello di essersi comportata in altro modo. 7. Entrano in scena le zie e gli zii. I Dodson erano certamente una bella famiglia e Mrs. Glegg non era la meno bella delle sorelle. Quando sedeva sulla poltrona a braccioli di Mrs. Tulliver, nessun osservatore imparziale avrebbe potuto negare che per una donna sui 50 era di viso e di aspetto molto avvenenti, quantunque Tom e Maggie considerassero zia Glegg come il tipo del brutto. Certo, ella disprezzava le lusinghe dell'eleganza, e infatti, se nessuna donna, come ella osservava spesso, aveva vestiti più belli dei suoi, non era nelle sue abitudini di portare quelli nuovi prima che quelli vecchi. Si mettessero pure le altre donne, se loro garbava, i ricami migliori anche nelle occasioni da strapazzo. Ma alla morte di Mrs. Glegg si sarebbe trovato che nel cassetto di destra della guardaroba, nella camera a fiori, ella aveva lasciati i pizzi più fini di tutti quelli che Mrs. Wool di St. Ogg's avesse mai comprati in vita sua. Quantunque Mrs. Wool si mettesse addosso i suoi pizzi prima ancora di averli pagati. E lo stesso per i posticci. Mrs. Glegg aveva certamente nei suoi cassetti i posticci bruni più lucenti e meglio ondulati, e così pure una quantità di riccioli nelle più varie gradazioni di morbidezza. Ma uscire un giorno feriale con una parrucca lucente e ondulata sarebbe stato introdurre la più fantastica e spiacevole confusione tra il sacro e il profano. Certe volte, a vero dire, Mrs. Glegg si metteva una delle sue parrucche della terza gradazione per una visita in giorno feriale, ma non certo per andare da una sorella e tantomeno da Mrs. Tulliver, la quale fin dal matrimonio aveva fieramente urtato la suscettibilità della sorella conservando i propri capelli. Tutto che da una madre di famiglia come Bessie aveva fatto notare Mrs. Glegg a Mrs. Dian, con un marito sempre in mezzo alle cause, sarebbe stato lecito aspettarsi una miglior condotta. Ma Bessie era sempre stata una debole. Così, se quel giorno la parrucca di Mrs. Glegg era più folta e morbida del consueto, ella aveva bene una sua segreta intenzione, che era di scoccare le più pungenti e taglienti frecciate contro le inanellate ciocche bionde di Mrs. Tulliver, divise in due bande da una scriminatura debitamente lisciata. Mrs. Tulliver aveva pianto più di una volta per la malignità della sorella Glegg a proposito di quei riccioli poco materni, ma la certezza che essi la facevano apparire più bella le offriva naturalmente una consolazione. Mrs. Glegg quel giorno decise di rimanere col cappello in testa, slacciandone i nastri e buttandolo un po' all'indietro, si intende, modo che le era consueto quando si trovava in visita ed era in vena di severità. Non si sa mai che correnti d'aria possano tirare in casa di estranei. Per la stessa ragione, portava una piccola pellegrina scura che le giungeva giusto alle spalle ed era ben lungi dall'arrivare ad incrociarsi sul petto formoso, mentre il suo alto collo era protetto da un chevaux de frise a pieghe svariate. Bisognerebbe essere familiari con le mode di quel tempo per stabilire a qual passato potesse risalire la veste di seta ardesia di Mrs. Glegg, ma da certe costellazioni di piccoli punti gialli che la chiazzavano e da un odorino di muffa che ne emanava, rivelatore di un'umida guardaroba, era probabile che s'appartenesse ad una stratificazione di abiti abbastanza vecchi per poter ormai essere messi in uso. Mrs. Glegg teneva in mano il suo grosso orologio d'oro con la catena a molti fili attorcigliata alle dita e fece presente a Mrs. Tulliver, tornata appena allora da una visita alla cucina, che qualunque ora potessero fare le pendole e gli orologi degli altri, sul suo erano già le 12:30 passate. Non so cosa capiti alla sorella Pallet, continuò. Nella nostra famiglia c'era il sistema che nessuno arrivasse più tardi degli altri. Son certa che ai tempi del mio povero papà si faceva così. E non che una sorella aspettasse mezz'ora prima che le altre arrivassero. Ma se i sistemi di famiglia sono mutati, la colpa non sarà mia. Non sarò mai io quella che arriverà in una casa quando tutti gli altri stanno per andarsene. Mi meraviglio della sorella di Anne. Di solito somigliava piuttosto a me. Ma se vuoi credere al mio consiglio, beh sì, anticipa un po' la colazione piuttosto che ritardarla, perché chi arriva in ritardo è giusto che la sconti. Dio mio. Non temere, che saranno qui tutti in tempo, sorella, disse Mrs. Tulliver con voce leggermente stizzita. La colazione non sarà pronta prima dell'1:30, ma se per te è troppo lungo aspettare, permetti che ti porti qui una tartina al burro con un bicchiere di vino. Brava Bessie, disse Mrs. Glegg con un sorriso un po' amaro e con una scossa del capo appena percettibile. Avrei creduto che tu conoscessi meglio tua sorella. Io non ho mai mangiato fuori pasto. E non voglio mettermi a farlo adesso. Però non posso a meno di deplorare questo assurdo di andare a colazione all'1:30, quando si potrebbe andarci all'1. Tu non sei stata allevata con questi sistemi, Bessie. Ma Jane, che posso farci? A Mr. Tulliver non piace di andare a colazione prima delle 2, e io anticipo già di mezz'ora perché ci siete voi. Già, già. So bene come vanno le cose coi mariti. Quelli sono fatti apposta per portare il disordine. Farebbero colazione addirittura dopo il tè, se trovassero delle mogli così deboli che si lasciassero trascinare a cedere. Ma è un peccato per te, Bessie, che tu non abbia un carattere più forte. Sarà già un bel guadagno se i tuoi bambini non ne soffriranno e spero che tu non ci abbia preparato un gran pranzo mettendoti nelle spese per noi, perché le tue sorelle preferirebbero mangiare una crosta di panduro che contribuire a rovinarti con le stravaganze. Mi fa meraviglia che non prenda esempio dalla tua sorella Diane, che è tanto più equilibrata. E tu hai anche due figli a cui provvedere. E tuo marito si è mangiata tutta la tua fortuna nelle cause e all'aria di volersi mangiare anche la propria. Un pezzo di giunta lessa con cui si possa fare il brodo per cucina, continuò Mrs. Clegg in tono di calorosa protesta. E un semplice pudding con un cucchiaio di zucchero e niente spezie sarebbero stati molto più adatti. La sorella Glegg di un simile umore. Oh, bella prospettiva per la giornata. Mrs. Tulliver non si attentava mai a discutere con lei. La gallinella d'acqua che protende supplichevole la sua zampa, non si può dire che abbia voglia di attaccar briga con un ragazzo che tira sassi. Ma quello del pranzo era un punto sensibile, non del tutto nuovo, talché Mrs. Tulliver poté ripetere la stessa risposta che già tante altre volte aveva data. Mr. Tulliver dice che fin quando se lo potrà permettere, vorrà sempre avere un buon pranzo per i suoi parenti, disse. E in casa propria, cara sorella, ha diritto di fare quel che gli piace. Ebbene, Bessie, io dei miei risparmi non ne posso lasciare abbastanza ai tuoi figli per salvarli dalla rovina. E sui denari di Mr. Glegg non ci devi contare, sarà già molto se io non muoio prima di lui, che viene da una famiglia longeva. E se dovesse morire e lasciarmi in buone condizioni finché campo, disporrebbe dei suoi soldi in modo che tornassero tutti alla sua famiglia. Un rumore di ruote, mentre Mrs. Glegg stava parlando. Fu un'interruzione molto gradita a Mrs. Tulliver, che si precipitò fuori ad accogliere la sorella Pallet. Doveva essere proprio la sorella Pallet, perché il rumore era quello di una carrozza a quattro ruote. Mrs. Glegg scosse il capo e la sua bocca prese una piega alquanto agra all'idea delle quattro ruote. Su questo argomento aveva opinioni molto precise. La sorella Pallet era in lacrime, allorché l'unico cavallo della sua carrozza si fermò davanti alla porta di Mrs. Tulliver, e secondo ogni apparenza era ancora necessario che ella ne versasse parecchie altre prima di scendere, giacché se ne rimaneva lì seduta, quantunque il marito e Mrs. Tulliver fossero pronti ad aiutarla, e scrollava il capo con tristezza mentre si affissava attraverso le lacrime su vaghe distanze. «Ma che succede, sorella?» domandò Mrs. Tulliver. Non era una donna di grande immaginazione, ma le venne in mente che il grande specchio da toeletta nella bella camera da letto di sorella Pallet poteva essersi rotto per la seconda volta. Non seppe altra risposta che un cenno del capo, mentre Mrs. Pallet s'alzava lentamente e scendeva dalla carrozza, non senza gettare uno sguardo a Mr. Pallet per vedere se egli era pronto a salvaguardarle la graziosa veste di seta. Mr. Pallet era un piccolo uomo dal naso aguzzo, dai piccoli occhi ammiccanti e dalle labbra sottili. Portava un abito nero, ancora nuovo all'apparenza, e una cravatta bianca che pareva essere stata annodata molto stretta in omaggio a qualche principio più elevato, che quello del semplice benessere personale. Al fianco della moglie, alta e bella, con le maniche a sbuffole, l'ampio mantello e il gran cappello piumato e carico di nastri, egli faceva la stessa figura di una piccola barchetta da pesca di fronte a un brigantino con tutta la velatura spiegata.